ore 18. L'altra Radio Roma presenta Oltre il confine. Confine. 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Oh boy. Oh boy, it looks good, boy. Io ne ho viste cose, ste cose. Oltre il confine. Che voi umani non potreste immaginarvi. Che porteremo. Oltre il confine. Fine. L'altra là di Roma. Oltre. L'altra là di Roma. Oltre il confine. L'altra là di Roma. Oltre. L'altra là di Roma. Oltre il confine. Oltre il confine. Oltre il confine. Musiche. Musiche. Musiche. Musiche. Parole. Parole. Parole. Parole. Chiacchiere. Chiacchiere. Chiacchiere. Chiacchiere. Ragionamenti. Ragionamenti. Ragionamenti. Ragionamenti. Ragionamenti. Programma ideato, scritto e condotto da Campo e Gasperino. Gasperino. Per farvi ragionare. Per farvi ragionare. Per farvi ragionare. Per avere un punto di vista diverso. Per avere un punto di vista diverso. Per avere un punto di vista diverso. Per andare. Per andare. Oltre. Oltre. Oltre il confine. Confine. L'altra là di Roma. Oltre. L'altra là di Roma. Oltre il confine. L'altra là di Roma. Oltre. L'altra là di Roma. Oltre il confine. Confine. Confine. Building shaking, getting that buffeting we've become used to. What a moment. Man on the way to the moon. Babylon, Babylon, my bad. Oltre il confine, come al solito, è qui con voi, con Mr. Gasperino e l'amico fidato Ciccio Bello, Mr. Chianto. Buonasera a tutti, buonasera a tutti, questa è un'altra radio, ci stavate aspettando. Eh sì, perché ormai sono partiti gli appuntamenti fissi, quelli del lunedì, no? Siamo ormai menando proprio giù, duro, facciamo le dirette il lunedì dalle 21 alle 23 e il venerdì su Fuso Radio, la prevederemo Fuso Radio dalle 19.18 alle 19.30. Lei, come al solito, è sempre preparato. Quello che abbiamo appena ascoltato è l'ultimo pezzo di Panic, ma Ella Express. C'è un blocco, mi sono emozionato. Rosario, vuol dire, questo è da troppo che non vado in diretta? Può essere, oppure può essere anche che l'ultimo pezzo, questo è del 2009, non lo credo. L'avevo passato intorno a... Passavo tutto, l'avevo informato, ma non emozionato. Mi sono emozionato, per il semplice motivo che, come al solito, pensa che si possa far radio senza ragionare. Perché non si è messo le cuffie? Ci siamo incontrati per stragionare. Non se lo ricorda? Per stragionare, infatti, il motivo di questa trasmissione. Ma di che cosa ne parleremo oggi? Ah, bel discorso. Chiaramente vogliamo la partecipazione di tutto quanto il pubblico. Certo, quindi aspettiamo i vostri commenti su Facebook, sulla chat di Facebook, ma anche potete contattarci tramite Skype, siamo già attivi, e vedremo nuove previsioni. Ma basta con le chiacchiere stupide e andiamo a presentare un altro bel pezzettino. Sì, una piccola sorpresa la possiamo annunciare. Questa sera in studio all'Altra Radione abbiamo un ospite, ma vi diremo tutto quanto dopo. Siccome poi si parlerà molto tanto, stiamo aspettando le pizze, lo dico io, le pizze, passiamo un altro bel pezzo di brano e poi ci mangeremo un bel pezzo di pizza. E si chiama Killy Mills degli Stati Uniti d'America. Credo che le piacerà perché fa un rap hip hop elettronico di quelli che picchiano, e la traccia si intitola Mad Humans. Voi siete su un'altra one function, not open to discussion or any kind of trust in, pull it down to substance. Well, we got nothing or something, awful disgusting. The theory's been pussing and bleeding. Only worried about the hairline receding, deceiving the masses. The Facebook status would read, here I am pleasing all these elite asses. Time to go to dynamic from the static, while the women walk mouths to get water, and they're leading all the sheep to the slaughter. Mother Earth is getting hotter, we forgot her. Right now she's pissed and igniting her daughters. Who will lead you to a new kind of life fulfill? Help you take the path that's right, no kill. Nurture your feminine side, love you despite who made you cry and who let you die. We forgive you with a sigh, but please do not deny all the slaves that helped you build this, all the women that gave your kids a kiss. This is it, bow down, you must quit right now. Like Desmond Tutu said, wow, the men done fucked up now. It's our turn to spread love, peace, equality, setting us free, my friend. Putting the patriarchy to bed. Yeah, you heard right, that's what I said. Too many kids dead or ain't been fed. Too many indigenous have bled. Yeah, we're putting the patriarchy to bed. The one outside and inside our head. We planned it all, we've made our own bed. Time to awake, evolve, and defend. I'm not saying no men will lead. The many in power that we need to be way. Show us to the light. Show us they nurture the feminine sight. Cause something has not been right. You can feel it even if you ain't been paying no attention. It shows up in everything you've been. And feel you are an extension of what is real, of collective consciousness, invention. We planned this, now time for intention. How's that for indigestion? Now let me deal and make a suggestion to clean the wounds that have been festering. Forgive all who you won't mention and who you hate. Forgive the wrongdoers and the freaks. Send love to every soul from pole to pole, city to city, mother to son, and young to old. No need for pity, we are all one. Break out this mold, give out what you stole, admit when you lie. Bearing you inside, be willing to be wrong. Stop worrying about looking good. You don't don't have to be strong or hurrying to be what you think you should. You are whole, perfect, strong, powerful. Reflect that in the world and you will live long, loving, harmonious and happy. It's stunning when all of us are sappy, full of passion and lacking greed, but still human yet perfect indeed. But when we admit a downfall, suddenly we feel that we belong to a universal force that holds you up, keeps you on course with no remorse. I honor each of you for all your darkness and your light, and the integration can now begin this night. Yeah, siamo rientrati in diretta qui su un'altra radio Roma, la grossa radio che presenta musica, musica, musica, Creative Commons. Musica Creative Commons, che significa tutti gli artisti che decidono di licenziare le proprie opere in maniera diversa dalla SIAE possono utilizzare questo tipo di licenze e noi possiamo mandarli in onda senza dover pagare un centesimo alla SIAE. Del resto siamo una radio Creative Commons, questa è un'altra radio Roma. Questo se lo ricorda, complimenti, questo è già un passo avanti rispetto a prima. Di ragionamenti vuole portare le persone a ragionare su quello che ci passa a noi per la testa. Noi siamo convinti che i nostri ragionamenti prima o poi qualcuno darà una risposta, ma qual è la risposta che daremo oggi? Non lo so. So che daremo la risposta? Sì. Proviamo a fare un piccolo ragionamento, un piccolo percorso, se ci riusciamo, un volo pindarico come al solito a questa trasmissione. Per privarmi la serata? No. Noi perché volevamo fare questa trasmissione questa sera, Mr. Kemp? Perché ce l'avevamo domandati, no, dopo la morte degli ideali, oggi che cosa ci ritroviamo di fronte ai valori, che fine hanno fatto tutte queste cose. E abbiamo provato io e lei, da poco ripresenti, a fare un ragionamento sui valori, quelli che erano i valori degli anni 50, 60, 70, 80, 90, fino ad arrivare al 2000. Ci siamo ovviamente massacrati, persi, però un piccolo ragionamento l'abbiamo fatto. Sì. Ma per aiutarci nel nostro ragionamento, quest'oggi abbiamo portato in studio un esperto. Un espertone, io direi un amico. Ok, lui è Alessio Fanelli ed è un sociologo che ci aiuterà in qualche modo a entrare nell'argomento. Se Mr. Kemp passa un momento il microfono a lui, io proverei un attimo a farlo entrare, chiedendo intanto ciao. Ok, Vorrei farti una domanda così a bruciapelo, no? molto più sulle esperienze personali che su quello che tu hai studiato, cioè quindi ti chiedo quello che tu hai visto, perché io lo so che tu in qualche modo hai girato il mondo e ti sei divertito parecchio in giro per il mondo e quindi conosci altre realtà, no? Nell'ultima mi sembra che hai a che fare qualcosa col Giappone ultimamente, no? Sì, 2 anni fa, ho passato tutto scorso un anno in Giappone. Sì, 2 anni fa ho trascorso un anno in Giappone, insomma, ho avuto delle esperienze in altri paesi e credo che la cosa fondamentale quando si sta in un altro paese sia quella di vivere un paese più che visitarlo. Questo è un concetto molto fondamentale, un po' nella sociologia e anche un po' nell'antropologia, cioè il fatto di riuscire a vivere lì significa respirare quello schema culturale, quei valori, quel tipo di concetti base sui quali ruota tutta la società, no? Ma hai riscontrato valori diversi tra società e società o i valori sono gli stessi e poi mutano secondo le culture e le esperienze? Guarda, ti dico che a livello, diciamo, base, a livello popolare, posso dire che in base alla mia esperienza un po' i valori di base sono abbastanza simili da paese a paese, quindi è incredibile riscontrare a volte similitudini ceti popolari arabi, ceti popolari indiani, ceti popolari latinoamericani e via dicendo. Quindi insomma a livello basso, a un ceto medio basso, diciamo, i valori a mio avviso sono coincidono. Per quello che riguarda invece le alte sfere, lì abbiamo dei cioè chiaramente le linee guida, no? Che vengono proposte dai vari governi o dai, comunque dalla società in sé, quelli sono decisi, insomma variano molto più facilmente rispetto a quelli che poi è la struttura portante della società in questione. Insomma, abbiamo capito di che cosa si vuole parlare oggi. Mi sembra che adesso si sta riscaldando quella cosa che mi interessa, mi divertirà questa serata. E che facciamo? Passiamo un altro pezzo oppure proviamo a cominciare a dire qualcosa di diverso? Io passerò intanto l'altro pezzo, visto che insomma abbiamo cominciato a introdurre il discorso. Intanto manderò un altro pezzo di musica, così intanto pensate anche all'argomento. Loro sono Low Dog, Waste Your Time, Araber Boy. Waking up, brush my teeth and wash my brain. Drink some coffee, the news driving me insane. The world is bad, I stay at home, yeah. This is just another day. Waking up, brush my teeth and wash my brain. Drink some coffee, the news driving me insane. The world is bad, I stay at home. No more hate, no more racism. And no one is judged by the color of the skin. No gods and no religion. No corruption and no politician. See how nice this world could be. When people would all get tired and sleep. I'm trying my best, I'm going to bed. And I keep on dreaming of a better world. Waking up, brush my teeth and wash my brain. Drink some coffee, the news driving me insane. The world is bad, I stay at home. This is just another day. Waking up, brush my teeth and wash my brain. Drink some coffee, the news driving me insane. The world is bad, I stay at home. Just another day. Just another day. Just another day. un'altra radio Roma. Sul Gianello, ripeto, si chiama Enzo Carlino e questo brano si intitola No One This of Love. Bene, su queste note io comincerei a entrare su quello che è il discorso di questa serata, di questa serata basata su un ragionamento che io e Mr. Camp ci siamo fatti una sera davanti a una bottiglia di vino e l'abbiamo voluto portare qui in trasmissione. Io andrei a vedere direttamente quello che è il significato estrinseco, cioè quello scaricato, della trasmissione che vogliamo fare. Noi vorremmo parlare dei valori del 2011, dei valori di oggi. Quindi partiamo proprio dalla definizione di un valore. Un valore è una concezione di un desiderabile, esplicita o implicita, distintiva di un individuo o caratteristica di un gruppo, quindi è singola come può essere di una popolazione più grossa, che influenza l'azione operando una selezione tra i modi, i mezzi e i fini disponibili. Detto questa, che è la semplice definizione, che cosa accade a questo punto? Mr. Kemp, lei che si trova dall'altra parte della regia, ma che cosa accade a questo punto? Lei manda un bel pezzo musicale, passiamo un pezzo musicale e poi successivamente rientreremo praticamente quasi subito in diretta, pronti per raccontarvi ancora quelli che sono i nostri ragionamenti. Questi ragazzetti che abbiamo sentito subito dopo il pezzo che lei ha detto, sono ragazzetti, questo è un bel gruppo spagnolo molto simile al gruppo più famoso, loro sono in caso perdito e questo era europeo, infatti fanno riferimento a parecchi amichetti nostri, no? Ah sì? Pure a quello dell'ex cuffo dominatore delle scene panoramiche, insultare proprio liberamente. Anzi, se noi non ci hanno cancellato, sai, visto queste volte, libertà di nominabile, ah beh, perché ha cambiato qualcosa per scordarmi. Vabbè, ma anche questo entra nei discorsi della politica, e quindi la politica entra nel discorso dei valori, e ci eravamo fermati proprio alla fine degli anni Ottanta, quando a un certo punto è stato buttato giù il muro di Berlino, e gli ideali, si interrompe qualcosa. Però quello che si interrompe è che crollano tutte le ideologie. Praticamente alla fine degli anni 80 crolla definitivamente il sistema politico, economico, comunista. Esatto, e quindi se finiscono le ideologie, i valori che ce ne fanno? I valori, secondo me, i valori non crollano mai. Quindi stanno da qualche altra parte. Proviamo a sentire che ci dice il nostro amico. C'è l'interrogazione? No, l'interrogazione no. Mandiamola alla lavanda, dai. Su. Che poi dice che non era più nessuno qui in diretta, su. Allora, stavamo dicendo, no, al termine degli anni Ottanta, crolla il muro di Berlino, crollano le ideologie e i valori che fine fanno? Beh, crolla l'ideologia comunista, se vogliamo. Sì, però non avendo più nessun'altra, non essendoci più nessuna altra ideologia di contrapposizione. Beh, diciamo che comunque la vittoria della guerra fredda è decisamente dell'Occidente, quindi l'Occidente filo statunitense, okay. Tutto il blocco occidentale viene comunque portato sotto l'ideologia capitalistica. E quindi è stata in contrapposizione al comunismo, insomma, da 50 anni praticamente, quindi su quelle basi si costruiscono le moderne società, ecco. E che valori hanno queste moderne società? Perché se la società è basata sul capitalismo, libera concorrenza, Dio denaro, anche quelle sono le diciamo le terminazioni imprevedibili del sistema capitalistico, perché comunque è il principio di base della non omologazione in teoria ci può anche stare. Il problema è che poi questo va a finire, come vediamo oggi in praticamente quasi tutti gli stati europei occidentali, il gap tra ricchi e poveri si sta incrementando sempre più, quindi diciamo da un'ideologia liberale poi si arriva a un discorso di disequità sociale che fa paura. Quindi poi quando c'è disequità sociale purtroppo poi vengono a crollare tutti i valori umani, no? Etici della società. Quindi ad esempio, non so, io posso portare l'esempio di Cuba, qua sono stato un po' di tempo. Lì per esempio la società non garantisce all'individuo un certo tipo di standard sia a livello etico che a livello economico, e quindi il risultato è un totale delirio da parte di tutte le persone popolari, perché sono praticamente tutte, non c'è differenza tra ceti. Però quello che voglio dire è che comunque la situazione di disagio che c'è in una società porta poi a un abbrutimento da parte di tutte le classi popolari. Prima mi ha colpito che hai detto che praticamente la società dove hai riscontrato più i valori intesi come quelli assoluti, i valori umani, etici, culturali, tanto rappresentano tutto, li hai visti molto più forti nei ceti bassi dove c'è la disperazione e magari molti di più, ma più i più disparati nelle società, nella parte della società, insomma, nei ceti più alti. Sì, perché bene, fondamentalmente il discorso è che nelle società più povere quello che succede è che gli strati più bassi sono abbastanza allo stesso livello, sono omologati. Nei paesi più ricchi ovviamente si crea una diversità sociale, quindi ci sono i più ricchi, ci sono la alta borghesia, la media e bassa borghesia e poi il proletariato. Quindi diciamo che in una società, per esempio prendiamo l'India, ci sono le caste, no? Però diciamo la casta più bassa è quella della maggior parte delle persone, e lì si annidano poi quei valori che sono più umani sicuramente rispetto a quelli dei ceti più alti, no? E questo è un dato di fatto. Se io ti giuro, vi posso portare un'esperienza mia. Quando stavo in Messico ho viaggiato molto facendo l'autostop, no? Credetemi ragazzi che ogni volta che chiedevo un passaggio a una macchina, passava una macchina moderna, diciamo tra virgolette, quindi di una marca, diciamo, non si fermava nessuno. Appena passava un carrettino, una macchina tutta sgangherata, si fermavano subito per aiutarti. Questo è un piccolo esempio, ma dà un'idea di quanto nel momento in cui non c'è ricchezza, le persone sono più propense ad arrivare a un accordo, diciamo, più etico, più morale, a benessere incontro e riparsi. Questo è un po'. Vabbè, benissimo, l'unica cosa è il microfono. Ah, microfono. Scusami, devi cercare di scusare. Perché sennò poi si sente un po' di rumore. E volevo farti un'altra domanda. Quindi, cioè, tu praticamente ci hai raccontato che al termine degli anni Ottanta le ideologie si sono riversate su quello che abbiamo sempre avuto anche noi, no? Il capitalismo, l'ideologia del capitalismo, dove poi alla fine che cosa è accaduto, mister Campone? È accaduto che la gente ha guardato il proprio orto e quindi poi si sono abbruttite le classi, come ci stava raccontando appunto Alessio. Ma sì, fondamentalmente quando non c'è niente da tenere, non c'è bisogno di preoccuparti di tenere quello che hai, perché non hai niente o hai poco. Quindi condividi molto di più, apri la porta di casa e la lasci aperta perché possono entrare tutti, tanto non c'è niente da rubare, no? Esatto. Dal momento in cui invece si accumulano le ricchezze, a quel punto c'è il problema di tenersi, no? Di chiusura, di proteggersi, così. Sì. Questo vedi, io vi dico che bella immagine. Io vorrei provare a farvi sentire un pezzo che già negli anni 70 si recitava in questa maniera. Lui è un personaggio a noi caro, perché è un personaggio a noi caro, non è un musicista, ma è un attore, scrittore, commediografo o quant'altro, e provo a farlo sentire anche qui in radio perché penso che sia importante. Sentite? Ok, allora il pezzo che io e Mr. Camp avevamo scelto era proprio questo. Capito, ma arriva pure il pistolotto sul fior pratico. No, non ci hai capito male, Don Arfio stava qui perché te voleva. Te voglio stare a sentire, te voglio conoscere meglio, perché è un grosso studioso di morale, è un grosso filosofo, è l'uomo della chiesa con due cose così, a Ruggero! Niente, un bel giorno, no, mentre mi trovavo a passare sul Ponte Vecchio a Firenze, cioè sentivo proprio che quegli abiti che portava addosso, cioè un po' da fichetto, no, da figlio di papà, no, cioè erano quasi diventati un peso, no, per me, tant'è vero che decisi proprio a livello conscio proprio di disfarmene completamente, no? Tant'è vero che feci un enorme pallottolone e lo buttai proprio giù nell'arno, no? Scarpe, camici, calzoni, tutto da sotto a buttare. Tutto nudo sul ponte stavi? Beh? Niente, dopo un po' praticamente che ero rimasto nudo, niente, uscii praticamente da Firenze, no? E cominciai a camminare per le campagne circostanti, no? Cioè, mentre camminavo, un sacco di fiori che si aprivano al mio passaggio e un sacco di profumo che si espandeva per tutta la campagna, era veramente qualcosa di inebriante, no? E poi un'altra cosa favolosa era proprio che gli uccelli, e veramente un sacco di uccelli, no? Proprio che scendevano proprio dagli alberi, no? Cioè, quasi per parlarmi. Per parlate, che ero pappagalli? Molto scale che stanno pure i pappagalli. Scusa Maria, ma non interrompiamolo, per favore, non interrompiamo. Cioè, improvvisamente, no, in fondo ad un sentiero, no? Vidi come la figura di un uomo, no? Vestito di bianco, no? Cioè, dal cui volto veramente splendeva una luce un sacco strana, no? Cioè, ma la cosa ancora più strana era, cioè, che mentre io mi avvicinavo a lui, no? Cioè, mi sentivo prima un sacco caldo, no? Poi un sacco freddo. Cioè, quando giunsi a una distanza di circa 10-15 centimetri da lui, no? Cioè, mi venne quasi spontaneo inginocchiarmi, no? E fargli questa domanda. Cioè, maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love. E mi disse, perché non rimani qui con me questa notte? Potremmo ripararci insieme sotto questa frasca. Arrivai. Anche perché di notte, no? Un sacco di spiriti malvagi potrebbero turbarti durante questo tuo cammino, no? E niente, allora io accettai, no? E ricordo proprio che trascorsi questa notte con lui, no? Sotto un cespuglio, no? E veramente di notte proprio si sentivano proprio tutti questi spiriti malvagi, no? Che aleggiavano intorno, no? Però io, cioè, ero abbastanza sicuro, cioè, anzi, no, ero sicurissimo, proprio perché lui mi difendeva proprio con una lunghissima spada di fuoco. Cioè, quando la mattina ci svegliammo, no, cioè, lui, il maestro, non mi disse, adesso prosegui, vai sempre dritto, no, in fondo a questo sentiero, perché troverai un grandissimo casale bianco, no, con una grandissima piscina, dove un sacco di ragazzi di tutto il mondo, no, stanno formando una grandissima comunità, no? E là veramente incontrai ragazzi un sacco simpatici, c'erano un sacco di cileni, rodesiani, tedeschi, inglesi, Pure io ci stavo. Sì, insomma, tutta gente che ha fatto un certo tipo di scelta, no? La scelta dell'amore. Cioè, allora, mentre le ragazze, no, provvedono alla raccolta di frutti naturali della terra, no? Tipo carciofi, ravanelli, insalata, piselli, no? Tutta roba vegetariana un sacco buona, no? Noi ragazzi invece provvediamo così alla dimensione artigianale, no? C'è tutti i lavoretti così in ceramica, in cuoio, no? Così eccetera, no? Però diciamo che il vero e proprio rapporto totale, no? Cioè di gruppo, no? Cioè avviene la sera, no? Cioè quando di fronte a questa tavola imbandita, no? Di roba vegetariana da una parte, di cacciagione dall'altra, così, niente, parliamo dei nostri problemi, no? Ci confrontiamo, preghiamo, ascoltiamo della musica, no? Eccetera, no? Ora vedi, l'altra sera, no? Per esempio, ci è venuto spontaneo, cioè spogliarci completamente nudi, no? Ed andarci a buttare nella piscina, no? Lo sento. Lo sente, ma lei non dice niente. Scusa Mario, noi ci troviamo qui per ascoltare, valutare con serenità, ma io direi anche con rispetto, perché io nel suo racconto ci trovo anche dei punti di estremo interesse. Prego. Ma interesse di chi? Ma interesse di chi? Tutti dentro la piscina con sti cosi da fuori. Ma padre, ma vai via così, senza una casa, senza una famiglia, che le mazza al culo, ai se poveri a chiedere la proposta. E con sta stronza che so dura che sta mastica, ma che te cianci, io? Guarda che io a mio padre gli ho già sputato in faccia, attento fascio, che non ci metto niente. A me fascio? Io fascio? A socco me! Io mica so comunista così, sa! So comunista così! Plausibile le tue mani su di me, con abilità magnetica mi traviano, complice inaccettabile la mia sete di avidità mi porta dritto a te, che non dai adito, non dai adito. Se mi agito, se mi agito, se mi agiti, se mi agito. Giro tondo e stabile sulla mia testa che immobile guardi con avidità e abilità, complice inaudibile la mia sete di ipocrisia mi porta dritto a te, che non dai adito, non dai adito. Se mi agito, se mi agito, se mi agiti, se mi agito. Questa sera con Oltre il Confine si sta analizzando, si sta parlando su quelli che sono i valori, ma siccome io e Mr. Campo ne sappiamo veramente veramente poco, abbiamo portato qui in studio un amico che ci sta aiutando nel nostro ragionamento dei valori, appunto. Se i valori in qualche modo poi sono rimasti all'interno di alcuni aspetti, come quello della famiglia. La famiglia in qualche modo racchiude un valore che è rimasto apparentemente sempre lì, non ha subito nulla nel tempo, apparentemente è rimasto così. tanto bene che anche la Costituzione italiana nel 1948 prevede gli articoli appunto proprio sui valori, no? Dice la famiglia è senz'altro valore sociale fondamentale della nostra società, e la Costituzione ne stabilisce con gli articoli 29, 30 e 31 l'importanza fondata sul matrimonio. Posso dire una cosa, Alessio? Che hanno fatto lui a fare? Visto che comunque hai girato tanto, realmente i valori della famiglia sono uguali da tutte le parti? E questa è una cosa, per esempio, cioè, comunque in Italia probabilmente i valori della famiglia sono dettati anche dalla religione, dal cattolicesimo e dal cristianesimo comunque come principio. Però voglio sapere, in altre parti del mondo tutte le società sono strutturate con certi valori per quanto riguarda la famiglia oppure cambiano? Beh, questo è un discorso molto ampio, perché il concetto di famiglia è un concetto che, se voi prendete un qualsiasi testo di base di sociologia, trovate la famiglia al primo posto tra i concetti base. Quindi la famiglia è un concetto, un valore che esula dal discorso religioso. Non solo dove c'è la religione c'è la famiglia. La famiglia è sempre stata presente nell'uomo in quanto giustamente parte naturale del suo processo evolutivo. Però chiaramente poi la Chiesa in Occidente ha consacrato, diciamo, questo concetto base e l'ha portato, insomma, come baluardo. Questo è il classico esempio, scusami Alessio, questo è il classico esempio di come noi siamo abituati a ragionare in base al nostro orticello, no? La nostra cultura è proprio quella cattolica. Cosa comporta? Nel momento in cui uno parla di matrimonio e di famiglia, inevitabilmente pensa al matrimonio della Chiesa. Giustamente tu dici, è un valore che è sempre stato presente nell'uomo. Certo. Certo, a prescindere dalla religione, la famiglia è un concetto base anche nell'Islam, anche nell'induismo, con tutte, insomma, le filosofie e o religioni mondiali, quindi, che ci sono sempre state. Quindi. Faccio l'esempio, gli americani, quella struttura di famiglia, sì, fino alla certa età, fino a che sono obbligati a tenerti sotto il loro tetto, stai a casa e fai parte della famiglia. Dopodiché la maggior parte delle famiglie si sciolgono, comunque uno va a vivere in uno stato, uno va a vivere in un altro. E comunque, per esempio, noi italiani non siamo portati molto a fare questo, è difficile che ci allontaniamo dalla nostra famiglia, comunque dal nostro nucleo familiare, mentre nelle altre nazioni succede anche in Nord Europa succede molto spesso. Sì, hai toccato un tasto molto importante e molto attuale soprattutto. È un tasto che comunque non può essere riconducibile, a mio avviso, solamente a un discorso religioso. Il cambio del concetto di famiglia è una cosa che, a prescindere dal paese in cui ci troviamo, a prescindere dalla religione in cui si crede in quel paese, è comunque un concetto che sta cambiando. Cioè la famiglia non esiste più come la conoscevamo prima, e questo non è dovuto tanto dal cambio di religione, al cambio di ideologia da comunista, da capitalista, quello che sia, è un discorso proprio globale di evoluzione dell'uomo, che in questo momento sta avvenendo ciò che fondamentalmente è l'oggetto di studio di probabilmente tutte le università, tutti i dipartimenti di sociologia del mondo, cioè la globalizzazione. Cioè il cambio che sta avvenendo nel mondo attuale è la causa prima di questo cambio del valore della famiglia e del concetto di famiglia. Questo molte volte non viene percepito dalla società nel piccolo, ma guardandola dall'alto, diciamo, è possibile vedere che nel momento in cui una società diciamo basata su dei livelli, su dei concetti, dei valori, appunto, come dicevi, tradizionali, uso questo aggettivo, adesso si sta cambiando, man mano che queste società passano a un livello più moderno, più diciamo attuale, più globale, a quel punto la famiglia comincia a disgregarsi. E i motivi, qui c'è una lunga lista, però io considero la globalizzazione il nuovo andamento, il nuovo assetto che sta prendendo il mondo, è la causa primaria della disgregazione da famiglia. La mafia è una famiglia. In qualche modo ha avuto ragione di essere in Sicilia e in tutta l'Italia per un bel po' di tempo, proprio perché c'è questo valore familiare. Se no non avrebbe funzionato, se no si sarebbe in qualche modo interrotta, rotta, e non sarebbe andata avanti. ma nella globalizzazione la mafia sarà inglobata? No. Questo è un altro bel discorso abbastanza ampio. Io, a mio modo di vedere, la famiglia intesa come un discorso mafioso, come dici tu, si trasformerà anch'essa, e quindi a mio avviso il concetto di famiglia sta assumendo, cioè fondamentalmente la famiglia si disgrega perché il raggio d'azione che c'era prima, che era molto limitato, adesso diventa molto più largo, quindi c'è più possibilità di scelta, c'è meno tendenza al sacrificio perché c'è più scelta, c'è più il raggio d'azione delle persone si è ampliato, no? E quindi se prima nascevi magari in un paesino della Sicilia e la tua realtà era quella del paesino della Sicilia, adesso dalla Sicilia puoi andare a finire in India o in Inghilterra in un attimo, quindi il tuo raggio d'azione si amplia, e questo porta, a mio avviso, anche è uno dei motivi principali della disgregazione familiare. Ritornando al discorso della mafia, penso che la mafia, intesa nel tradizionale concetto di mafia, sia probabilmente destinata a crollare. Però il rischio è che poi si crei un altro tipo di mafia, una mafia globale, una mafia dei poteri forti, una mafia che, utilizzando lo stesso concetto familiare che dicevi tu, poi possa in qualche modo estendersi a livello globale, e già sta succedendo. La 'ndrangheta è presente in praticamente tutto il mondo con un impero mostruoso, quindi voglio dire, è già successo. Quindi il concetto di mafia, lobby, caste, come le vogliamo chiamare, è comunque ora, io lo vedo come un discorso più ampio, più globale. Il fatto stesso che si possa parlare, ecco, di governi europei, governi globali, che danno, insomma, le linee, quello che è successo adesso in Italia, no? Cioè l'Europa ha praticamente dichiarato all'Italia che non doveva più pensare alla sua famiglia, ma doveva pensare alla famiglia europea. E questo è un esempio di come il concetto di famiglia e di corruzione in quanto mafia possa estendersi a livello. Non sto dicendo che il Parlamento europeo è corrotto, ma sto dicendo che una mafia in futuro potrebbe essere una mafia globale, una mafia molto più di poteri forti, insomma. Posso dire, secondo me, che la mafia è uno dei motivi perché i valori crollano. Perché ci pensi, alla fine, culturalmente, quello che ti ritieni mafioso è, per esempio, un esempio stupido, no? Prendi una multa e vai subito da vigile a fatta la cancellare. Ok, se c'è conoscenza te la cancelli. E là, secondo me, già crolla il valore in sé per sé, perché comunque i valori sono i valori di rispetto, i valori di... sono tutti i valori assoluti che esistono da sempre. E secondo me va contro tutto, va proprio contro ogni tipo di valore, vista da quel punto di vista. Allora, io questo è un altro bellissimo punto, hai preso un punto cruciale, a mio avviso, nell'analisi di questo concetto. Allora, praticamente è verissimo quello che dici. Cos'è la mafia? Cioè, scusa, cos'è la famiglia? La mafia è una famiglia, come dicevi tu, no? E questo che vuol dire? La mafia si basa su un concetto: la mia famiglia a cui appartengo ha dei valori, dei privilegi. In quanto io sto facendo anche dei valori, come anche dei valori, perché ti dice così deve essere. Il problema però è un altro: che gli altri, quelli che non fanno parte della famiglia, che fanno? O si adattano o vengono schiacciati. Esatto, quindi la mafia è l'esempio più lampante dell'antimeritocrazia che esiste nei sistemi occidentali. Sì. Quello che voglio dire è che se, quello che diceva lui, prende una multa, se conosci qualcuno la cancelli. Ma questo non è un ragionamento che una persona dovrebbe fare, questo è un ragionamento mafioso. La mafia, attenzione, in Sicilia, dove ha origine, veniva utilizzata soprattutto come ente giuridico, come ente sovrano, cioè pure se c'erano i vari prefetti eccetera eccetera, la gente, proprio la popolazione, si recava dal boss mafioso per risolvere le problematiche che aveva. Mancava un lavoro, mi serviva il grano, quello per l'inadeguatezza della struttura governativa. Sì, sicuramente lì c'era un patto segreto interno tra Stato italiano e Sicilia. Sicilia, perché se no la Sicilia non sarebbe mai entrata in Italia dopo la seconda guerra mondiale. Però quello che voglio dire io è che comunque poi alla fine non è l'atteggiamento mafioso come assenza di valori, perché poi la mafia di per sé ha dei propri principi, dei propri valori che sono loro, e se uno li calpesta rischia anche di essere schiacciato. Il problema però è che sono di una ristretta parte della società. Sì, nel capitalismo è sempre un cerchio stretto di persone che ne gode, sì. Non è il popolo. Assolutamente. A differenza di quelle che erano le ideologie comuniste dove andava diviso tutto, però poi ecco un'altra cosa che ti voglio chiedere. I valori a Cuba quali sono? Oh Madonna. Cuba allora, innanzitutto mi permetto insomma di sottolineare il fatto che Cuba non è l'unico stato comunista del mondo, nel senso ce ne sono vari, Laos, Corea del Nord, anche la stessa, cioè la stessa Russia, che economicamente è assolutamente capitalista, comunque rimane una base comunista. Anche la stessa Cina, che è un'espansione economica capitalista mostruosa, conserva a livello politico un discorso comunista. I valori a Cuba, dunque sono, a Cuba funziona così, cioè il governo che ha il controllo totale della società. E questo è chiaro, questo è chiarissimo. In tutte le manifestazioni della società. La società cubana è una società che è molto complessa, perché è il mix di varie etnie, diciamo originariamente africane, quindi i cubani sono molto scuri, sì. Non sono come classico latino-americano, no? I cubani sono neri, sono proprio neri. Sì. Perché? Perché vengono dall'Africa. Quindi c'è sicuramente una componente originaria tribale africana. Poi però c'è stata la conquista spagnola e quindi c'è stata l'importazione dei valori latini. E quindi troviamo a Cuba una società strutturata con dei concetti assolutamente latini. Cioè la struttura, la base della società sono un po' la struttura che c'era in Italia 100 anni fa, che c'era nei paesi mediterranei e non dico soltanto sud europei, ma anche nordafricani, anche del Medio Oriente, quindi insomma tutta la fascia mediterranea che bene o male condivide un po' più o meno gli stessi valori, no? Troviamo questo a Cuba. Il problema però è che questo rigido controllo del governo e la totale mancanza di libertà per le persone provoca un caos totale tra le classi sociali, che poi non ci sono tante, perché ci sta quelli che comandano e la gente. Un avvocato prende quanto uno spazzino. Quindi cioè, non c'è differenza sociale, non ci sono le classi, ma c'è solo un'enorme massa che è povera e c'è il governo e basta. E a mio avviso i valori umani sono straordinari. Abbiamo concetti di famiglia, persone che hanno pochissimo, praticamente niente, hanno tutti le stesse cose. Tu facevi giustamente l'esempio, la povertà lascia la porta aperta, mentre sì, quando dobbiamo difendere i nostri averi chiudiamo tutto sotto chiave. Ma anche mentalmente è successo questo, la globalizzazione porta la gente a chiudersi dietro a un computer e Facebook e pensa di essere libero e stare... La globalizzazione parlerei di maggior ricchezza. E capitalismo quindi, ma il capitalismo poi alla fine però globalizzazione è un concetto diverso, cioè non è soltanto maggiore ricchezza, globalizzazione è anche maggiori mezzi di comunicazione, di scambio, no? Cioè la globalizzazione, lui dice che la globalizzazione praticamente è quello che ti sgrega di più la famiglia. Però i messaggi che manda la globalizzazione, che quindi sono tutti uguali, la pubblicità, ogni genere, canzoni, i telefilm, mandano tutti uno status di famiglia, composto comunque da un figlio solo o al massimo da due figli, dove si vive con una certa tranquillità, una certa calma, diciamo, quando la realtà poi è molto diversa, perché comunque come dicevi te le famiglie si disgregano. Quindi perché un messaggio globale, cioè il globalismo manda un messaggio e invece la realtà è un'altra? Secondo me il punto è la definizione di globalizzazione. La globalizzazione noi molte volte gli diamo una connotazione positiva o negativa. La globalizzazione è neutra. Cioè la globalizzazione è un processo evolutivo della società mondiale, non solo di noi, è proprio l'umanità che si sta evolvendo. quindi il movimento, ad esempio, io non mi piace molto la definizione del movimento anti-global, no? Quello noto a Seattle, perché dai principi su cui si basa sono anche giusti. Il problema è che anti-global vuol dire anti-globalizzazione. La globalizzazione è un processo ineluttabile, non si può fermare, non si può arrestare. Sarebbe come dire alle persone che dopo che hanno scoperto l'uso del ferro non usate più il ferro. Perché? La globalizzazione è un unione di processi umani in evoluzione, che può avere una direzione positiva o negativa, ma comunque è un processo ineluttabile. Quello che sbaglia Fidel Castro tornando a Cuba, scusa se mi allaccio, è il fatto che lui vuole contrastare la globalizzazione. Cioè lui, se tu vai in giro per Cuba, vedi i campi con della gente che ancora c'ha gli animali, i buoi che si fanno un mazzo così, ci mettono un sacco di tempo per avere un pezzo di campo che adesso si fa in un attimo. Ovviamente queste sono cose che poi vanno tutte a scapito della popolazione. Però quello che voglio dire, cioè la globalizzazione come essenza non è per forza negativa, come non è per forza positiva. Sta a noi, sta all'uomo dargli una direzione positiva o negativa, ma di base è un processo inarrestabile dell'evoluzione umana. Mi vedi a compiere la chiaraggio Roma? Sì. Sei connesso. Sei connesso, connesso. Sei connesso, sei connesso. Fratello, sei connesso. Guarda la radio, sei connesso. Fratello, c'è mi chiamo Brunello Robertetto. Sì. Non guardo in faccia nessuno, né ora ormai sono abituato. Sono una persona democratica, ho rispetto per gli omosessuali e i negri, purché i due fenomeni non si presentano contemporaneamente. Sì. Grazie, maestro. Ora sì. Dico una poesia. Se l'amore è un frutto acerbi, io sarò il zucchero che dà quell'effetto. Se l'amore è un gioco, io sarò il punteggio che una persona racchetta, eccetera, eccetera. Se l'amore è un certo modo di fare, io sarò il persona squisita, eccetera, eccetera. Se l'amore è il capo colorato, io sarò la lavatrice 35 gradi massimo. Se l'amore è un volo di gabbiano, ancora me la cavo. Se l'amore è un'altra cosa, non sono preparato. Se il cane è il migliore amico dell'uomo, grazie tante per la considerazione. Bella, molto bella, maestro, complimenti. Ora dice: chi sei tu che nella notte penetri nel mio giacigli e col calore più corporeo mi copri di baci? Non lo sai che mia moglie è gelosa? Se fossi gatto, miau. Se fossi cane, bau. Se fossi tardi, ciao. Oro. Chi sono? Toc toc, sono l'amore. Ah, sei tu che busavi? Esatto. Che posto occupo nella tua vita? Vengo prima del tuo lavoro? Vengo prima dei tuoi amici? Vengo prima del tuo tempo libero? Cosa? Perché venerdì avrei un impegno. Se parli... però... rischio dubbio di fallire ora. Simpatici, sì. Sono Last and Gift, l'album è TBE, No Promises. Mentre il brano che ha venuto lei, questo è venuto subito dopo di Zanti, con le poesie che parlava da amore, che in qualche modo entrava nella trasmissione di oggi, che simpaticamente ci aiuta a ragionare. Mentre il brano successivo al suo, l'ho passato io, sono il Mi conosce questo gruppo di Incision Train, presi da John Anderson, Carlo alla chitarra e voce, Stefania batteria e Barbara al basso, un trio, che cantano un brano che si intitola Ipnosi e recita così: crisi di valori quotidiane incapaci di risolvere ambiti comuni, idee. Io partirei da questa frase per riallacciarci a dove eravamo rimasti. Dunque, loro che cosa dicono? Che in qualche modo non ci sta la crisi dei valori, alla fine servono delle nuove idee. Mentre adesso ci diceva che inevitabilmente è accaduto, come la rivoluzione industriale, un fenomeno che si chiama globalizzazione, e da qui partirà qualcosa necessariamente, giusto? Eravamo arrivati praticamente qua. Vai Alessio. Sì, la globalizzazione è un processo che non si può fermare. È un processo che è come l'invenzione della stampa, l'invenzione di, ecco, come hai detto tu, la rivoluzione industriale. È una cosa con cui noi dobbiamo fare i conti, ma di cui noi siamo gli artefici. Quindi noi dobbiamo sfruttare la globalizzazione per avere dei risultati positivi. E troppo spesso si fa l'errore di vedere solo quelli negativi, ma ci sono tantissimi altri lati positivi. Ma non c'è il rischio di uccidere tutto quello che è piccolo, perché comunque inevitabilmente la globalizzazione esclude il piccolo. Piccolo in che senso? Il piccolo intendo dire anche un piccolo artigiano, intendo dire anche, chi si fa un mazzo la mattina che va a aprire la bottega e ancora capace a trattare materiali che forse il ceraio. Certo, una delle cose sì, sicuramente negative che stiamo assistendo nella parendo le classi artigianali, le classi, insomma. E questo è il merito della globalizzazione. Chiaramente è un effetto della globalizzazione. Okay, sì, quindi è un effetto per me negativo. Anche se io in questo caso direi che quello che hai detto tu non è la causa più che della globalizzazione, direi di un discorso proprio di produzione di serie, la produzione in serie dell'oggetto, cioè quello è un discorso più legato alla rivoluzione industriale a mio avviso più che alla globalizzazione, però anche la globalizzazione c'entra sicuramente. Quello che credo io però è questo, che è vero quello che dici, che l'uomo perde qualcosa a livello lavorativo, perché i lavori si conformano, basta spingere un pulsante, non c'è più quello che fa proprio, che crea la candela e tutto quanto, quindi perde sicuramente in questo. Però dall'altra parte i processi tecnologici e globali portano il singolo individuo a avere una maggiore libertà nel suo spazio personale, nel senso, adesso l'uomo ha comunque, grazie alla tecnologia e alla globalizzazione, ha la possibilità di creare nel suo insomma, piccolo spazio, e ha delle grosse potenzialità, grossi aiuti dall'esterno. Prima non c'era tutta questa possibilità. Tu immaginate soltanto che adesso noi qui stiamo facendo una radio e 50 anni fa questo era quasi impensabile. Quindi ciò che noi guardiamo solo ciò che perdiamo, guardiamo anche quello che ci propone questo nuovo modello, questo nuovo sistema, capito? Mi sa già l'artwork, l'effetto della globalizzazione. Decisamente, totale direi, totale. Totale in tutto per tutto, è quello che, questo è un processo che si studia a livello sociologico, è praticamente il fatto che mentre diciamo prima una persona si svegliava la mattina e gli veniva in mente che voleva sapere qualcosa sul, non so, sul giardinaggio, allora usciva di casa, andava in libreria, anzi andava in biblioteca, si cercava un libro sul giardinaggio e poi applicava, si interessava, leggeva, si approfondiva. Adesso invece c'è un processo inverso, non c'è più quel tipo di mobilità sociale, adesso sono le informazioni che vengono da noi. Dicevo che quello che succede con i social network è quello che succede anche con Wikipedia, per esempio. Quindi mentre prima eravamo noi che andavamo a prendere le informazioni, adesso sono le informazioni che vengono da noi. Stessa cosa, prima eravamo noi che uscivamo per andare a trovare i nostri amici, sensazione. E adesso invece sono gli amici che vengono sul tuo tavolo. Questo mi mette ancora più paura, perché mi fa capire che veramente stiamo diventando allora davvero tutti uguali. Immobilità sociale è fatale. Perché poi è quello, se ci pensi poi è quello. È diventare tutti uguali. Che esco a fare? Resta a casa, adesso davanti a Facebook, tu dico io lo so vestito. Oggi c'è il frac, oggi sono vestito. Tanto quello che sapevo, anzi, oggi mi dico che ho vestito tutto di nero. Questo è quello che sarà, e quindi saranno tutti uguali e non ci sarà più differenza. Andiamo tutto. Andiamo solo a questo punto. Fa parte anche di quello che poi l'appiattimento delle televisioni che c'è stato negli ultimi 20 anni, 25 anni, no? Hanno fatto sì che la gente si rapportasse con una realtà virtuale come quella dello schermo, per poi scoprire che era finto, ma intanto poi si è rifugiata dietro i computer, non è che è cambiato molto, no? Sono un'altra cosa che ci stanno, no, non riesco a dirla quella parola, comunque ci rende tutti uguali, fatti dello stampino, se la ci pensa, perché poi comunque quei caratteri sono riportati da ragazzi. Mi sembra che in qualche modo questa serata, che era partita da delle domande deficienti che ci eravamo poste io e lei, ha assunto dei caratteri molto più importanti e più significativi, ma non grazie a me e lei, ma grazie a Alessio, che veramente... E sicuramente lo rinviteremo per qualche altra trasmissione che tornerà. Facile che ci dice di no, che è ritornato a Cuba, che preferiva il regime cubano che a noi, però sì, quello sì, non si può dire radio, e in radio non si può dire. Volevo dire, stavo rivedendo la scaletta che probabilmente è saltata già alla sigla, era saltata la scaletta che c'eravamo preparati noi con tanta fatica. Abbiamo inserito all'interno, no, di questo percorso quelli che possono essere i valori, eccetera, però lui giustamente ha fotografato quello che è l'aspetto mondiale, almeno ha preso vari esempi, ha parlato dell'India, di Cuba, della Cina e di altre esperienze, dove comunque poi rimane forte il valore della famiglia, anche se questo sta andando a morire. Ma morirà mai? Oppure si trasformerà e punto? Non lo sto chiedendo a te, Carlo, non devo rispondere. questo è proprio il domandone finale. Questo è un discorso molto particolare, perché bisogna cercare di capire qual è il range temporale di cui stiamo parlando. Cambierà in che termini di tempo? Nei prossimi 10, 20, 500, migliaia di anni? Il motivo per cui ho fatto questo ragionamento è questo. Negli anni 90 ci sono state le prime sperimentazioni di nuovi cloni, e con molto successo si è riuscito a manipolare il DNA per riuscire a produrre delle nuove vite, esattamente come sono quelle già esistenti. Quindi in questo caso come possiamo parlare di concetto di famiglia? Cioè come possiamo portare la famiglia, il concetto, il valore della famiglia con un discorso di clonazione? È difficile immaginare, dico questo perché dico che è difficile immaginare il futuro, il futuro a lungo termine ovviamente, in cui il concetto di famiglia rimarrà immutabile. Cambierà, sta cambiando e cambierà sicuramente molto di più, e chissà dove arriverà, non si può sapere, insomma. Questi sono vecchi amichetti veramente, anche loro stasera sono andati a riprendere tutti i vecchi pezzi dalla Wibble, che ne sa lei. Loro sono l'ultima fase. L'album che ho preso è Onda Anomala, che è uno dei primi lavori che hanno fatto, e la precetta è la televisione. Tutto bene, oggi c'è l'amica tele che risolve le tue pare, ti fa diventare un clone, come molti al giorno d'oggi non fanno che parlare di realtà in televisione. Questo è un nuovo affare, puoi girare e rigirare, canale su canale, stesse facce, stesse cose, stesso direttore, ma la gente paga per vederla. Persone di cartone dietro un vetro che spaventa. Accendo la televisione, vedo solamente facce di cartone. Non è certo una visione, questo è il mondo della comunicazione. Accendo la televisione, vedo solamente facce di cartone. Non è certo una visione, questo è il mondo della comunicazione. Giro canale su canale, dopo due stazioni il cuore batte, l'uomo qui si sente male. Una cosa da denuncia, un pugno dritto in pancia, non certo obbligato a porgere qui l'altra guancia. Concorsi per veline, volere volare, stereotipi fissati dal potere venale. Uomini abbronzati tutti quanti muscolosi, per voi sono diventati grandi supereroi. Accendo la televisione, vedo solamente facce di cartone. Non è certo una visione, questo è il mondo della comunicazione. Accendo la televisione, vedo solamente facce di cartone. Non è certo una visione, questo è il mondo della comunicazione. Che minchia me ne faccio di questo scatolone, ingombra, pesa e spara cazzate a tutte le ore. In più con le sue onde mi fotterò un coglione, e a 40 anni avrò pure io problemi di erezione. In più la gente dentro è vestita a perfezione, non dice parolacce, è maleducazione. Mi dice cos'è bene, mi dice cos'è male, mi fa vedere come potrò diventare un clone. Pubblicizzano campioni che ti ingabbiano la mente, situazioni e metamorfosi e non puoi farci niente. Mostrano una vita illusoria, a volte surreale per la gente che lo osserva. Bambine che crescono con la fissa e l'alfabeto, ti scelgono una lettera e la appendono dritta nel di dietro. Tra Barbie e pupazzi non ci sono orizzonti, finché spunta nella stanza la foto di Jay Scotti. Accendo la televisione, vedo solamente facce di cartone. Non è certo una visione, questo è il mondo della comunicazione. Accendo la televisione, vedo solamente facce di cartone. Non è certo una visione, questo è il mondo della comunicazione. stato questo percorso che abbiamo fatto insieme a Mr. Campo e ad Alessio, oggi nostro ospite, un sociologo che ci ha aiutato in qualche modo a ragionare, sui valori. La cosa che io chiederei a Alessio, così su due piedi, e poi andrei verso la conclusione di questa trasmissione: ha più valore il valore della classe sociale debole, povera, o della classe sociale ricca, che poi dovrebbe essere quella che dovrebbe investire e lavorare per il valore stesso? Ok, secondo me, guarda, ti rispondo in questa maniera, ti rispondo dicendoti, facendoti notare la differenza tra come viene recepito il valore da una o l'altra classe. Allora, una classe agiata, diciamo, percepisce un valore e detta i suoi valori, cioè uno schema sociale, ok, da seguire, quindi comunque deve sottostare a determinate regole, e quindi i suoi valori vengono praticamente decisi dalla classe agiata. Nel caso delle classi più basse, più popolari, il valore non è neanche pensato, è insito nella persona. È un valore che già, essendo parte della vita stessa, è già, non viene neanche recepito, come non c'è neanche il problema, perché c'è già. Questo voglio dire che lo splendore a cui si assiste quando si vedono delle scene in paesi magari un po' ancora arretrati economicamente e tecnologicamente, quelle scene che vedevamo in Italia magari, che ne so, 100 anni fa o 200 anni fa, quelle scene belle, quando la componente umana era molto più presente, no? Nelle persone. E adesso io le vedo ancora in qualche paese, ma stanno destinando a scomparire, e quelle sono delle cose bellissime che non so se rimarranno tracce, e questo è un peccato, insomma. Beh, triste. magari si trasformeranno, magari ci saranno altri modi di esprimere quelle cose. Certo, quelle scene popolari di un tempo forse un po' ce le siamo scoperte. Abbiamo pensato a questa trasmissione in un modo, è andata avanti in un altro, ma obiettivamente non ci è dispiaciuto affatto, assolutamente. Scusi, ma i valori, quindi, non crollano, si evolvono. Eh sì, tutto si trasforma. Quindi questo è il finale della nostra mitica trasmissione. Ma io a questo punto saluterei Alessio, quanto ci siamo avuti dall'inizio. Vi ringrazierei, perché sicuramente ci ha illuminato e comunque ci ha dato un certo rilievo alla nostra trasmissione, indubbiamente. Quindi appena vogliamo far parte della nostra combriccola e vogliamo avere a farti due chiacchiere qua con noi siamo veramente, veramente molto contenti, giusto Gaspo? Mia voglia, noi penseremo sicuramente a un'altra trasmissione dove invitare Alessio, se non starà in qualche angolo del mondo, perché è uno che viaggia. No, comunque ho avuto molto piacere a far parte di questa trasmissione, quindi insomma è bello sempre, penso, parlare, dibattere, è una cosa che è bellissima, quindi sì, sarò presente quando mi chiamerete. Metro Radio Roma tornerà in diretta venerdì su Fuso Radio dalle 18 alle 19.30. Non perdetelo. E ringraziamo tutti quanti gli artisti che hanno permesso le nostre trasmissioni. Abbiamo ringraziato Alessio, ringraziamo tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, ma soprattutto io volevo ringraziare lei, Mr. Camp, che malgrado tutto continua a fare radio. Malgrado tutto, lei continua a insistere. Vi salutiamo con Peter Sharp, Runtime Error. Alla prossima settimana. fuck you and all your lesbian bitches and in front of your fucking mother. Nastro Radio Roma.org.